Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Emergenza Covid, Italia verso lo scenario peggiore, terapie intensive a rischio entro un mese, così Conte alla Camera, in campo assicura per arrivare a 350.000 tamponi al giorno. Ancora poche ore di attesa e poi si conoscerà il nuovo DPCM, tutto chiuso dopo le 21, zone rosse locali, limitazioni per gli over 70, scuola a distanza alle medie tra le misure previste. Addio a Gigi Proietti, mattatore per quasi 50 anni della scena italiana, Mattarella, grande dolore per la scomparsa di un intellettuale lucido. Volata finale per la Casa Bianca, Biden in vantaggio nei sondaggi, 90 milioni di americani hanno già votato. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Se n'è andato dunque il grande Gigi Proietti, attore di teatro, cinema, tv, mattatore, animatore di eventi, romano, amato da tutti, avrebbe compiuto 80 anni proprio oggi. Cominciamo con il ritratto di Gigi Proietti e poi andremo tra poco alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che proprio in questi minuti sta riferendo alla Camera sull'emergenza Covid, verso il nuovo DPCM che arriverà ancora tra stasera, forse addirittura ci vorrà qualche ora in più domani mattina. Ma come dicevamo, il ritratto di Gigi Proietti. Mosti tre fici, c'erano tre fici per uno, tutte e nove te sfidano il cavaliere nero, ma il cavaliere nero ti ammazza tutte e nove. Un romano de Roma, Gigi Proietti, nato nella capitale il 2 novembre del 1940, musicista, cantante, all'università si avvicina al teatro sperimentale e trionfa nel 70 nel musical Alleluia, brava gente. Grande fortuna, ve tocca facile, ve sotto stringete, mamma come pulcini di attorno alla bionca per acquistare la mia mercanzia. Da lì una carriera inarrestabile, 50 anni di attività, 33 fiction, 42 film, tra cui il personaggio indimenticabile di Mandrake. Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è il fischi maschio senza raschio. 51 spettacoli teatrali, di cui 37 regie e 8 opere liriche, 10 album come solista, direttore del Globe Theatre di Villa Borghese, famoso soprattutto per i One Man Show. Ma faranno bene... Si bagni tutti. Ma Proietti è stato anche doppiatore, conduttore televisivo, protagonista di fiction come Il maresciallo Rocca e poi recentemente Mangiafuoco in Pinocchio di Garrone. Se ne va l'ultimo grande mattatore di Roma, proprio oggi nel giorno del suo 80° compleanno, in una città che senza di lui è diventata più povera. Sono contento di morire, ma mi dispiace. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Grande dolore per la scomparsa di un intellettuale lucido, così con queste parole Sergio Mattarella ha ricordato la figura di Gigi Proietti. Dedichiamogli un teatro a Roma, è la proposta che arriva da alcuni colleghi dello spettacolo. Un gigante dello spettacolo italiano, lo ha definito il regista Enrico Vanzina, figlio del padre Steno che diresse Gigi Proietti nel mitico Febbre da cavallo. Poliedrico e versatile, così lo ricorda il presidente Sergio Mattarella, alla grande cultura, alla capacità espressiva eccezionale, univa una simpatia travolgente che ne avevano fatto il beniamino del pubblico di ogni età. Straordinario protagonista della nostra cultura, lo ha definito il premier Giuseppe Conte. Lo ricorda l'Arma dei Carabinieri per il maresciallo Rocca e la Polizia di Stato lo ringrazia per il suo recente messaggio agli anziani sul Covid. Carlo Verdone ricorda la sua scuola per giovani attori al Teatro Brancaccio e sui social sono migliaia i messaggi di politici, uomini di spettacolo e del suo vasto pubblico. L'ultima mandracata, scrivono in molti, andarsene lo stesso giorno della nascita. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora ci occupiamo dell'emergenza Covid, andiamo alla Camera dove è in corso l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sta aggiornando sulla situazione della diffusione dell'epidemia in Italia, in attesa tra poche ore di conoscere anche i contenuti del nuovo DPCM. Andiamo allora con Teresa Trillò. Buongiorno Teresa. Buongiorno, l'intervento del Presidente del Consiglio in realtà si è appena concluso, ora è in corso il dibattito alla Camera. Conte ha spiegato che la situazione è in peggioramento, come però nel resto d'Europa, e la curva dei contagi impone nuove misure più stringenti per contrastare la pandemia. Conte ha escluso un nuovo lockdown nazionale e parla di interventi modulati a livello regionale che saranno specificati nel prossimo DPCM da approvare nelle prossime ore. Sentiamo Conte. Il prossimo DPCM individuerà tre aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive. L'inserimento di una regione all'interno di una delle tre aree, con la conseguente automatica applicazione delle misure previste per quella specifica fascia, avverrà con ordinanza del Ministro della Salute e dipenderà esclusivamente e oggettivamente dal coefficiente di rischio raggiunto dalla regione. Tra le misure in arrivo, ha spiegato Conte, c'è la chiusura dei centri commerciali durante il weekend. A livello nazionale saranno chiusi anche musei e mostre. Nelle scuole di secondo grado è prevista anche integralmente la didattica a distanza, sperando che sia temporanea, dice Conte. Limiti anche agli spostamenti da e verso le regioni ad alto rischio. Per il momento è tutto, restituisco la linea. Grazie a Teresa Trillo, ma come sentivate non c'è ancora niente di deciso, sono ancora le ultime ore nelle quali il governo con le regioni, con il comitato tecnico scientifico limeranno le decisioni per quanto riguarda il nuovo DPCM. Di sicuro c'è però la circolazione veloce del virus nelle varie regioni, sentiamo. Il nuovo DPCM dovrebbe fornire una cornice nazionale di interventi uniformi con misure più severe a livello locale, lì dove l'indice di contagiosità R.T. è più elevato. Le osservate speciali, secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, sono sicuramente Piemonte e Lombardia, rispettivamente a 2.16 e 2.09, a seguire la provincia autonoma di Bolzano e la Valle d'Aosta, mentre in altre 10 regioni l'indice R.T. ha superato la soglia dell'1.5. Su eventuali lockdown, i governatori delle regioni si battono per decisioni assunti a livello nazionale. Le misure devono essere necessariamente nazionali, dichiara il governatore piemontese Alberto Cirio, perché dalla Valle d'Aosta alla Calabria il virus c'è ovunque e sta crescendo ovunque. Ad auspicare la più stretta collaborazione tra tutte le istituzioni dello Stato è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella durante un colloquio con i governatori dell'Emilia-Romagna Bonaccini e della Liguria Toti. A parlare di una diffusione più ampia e peggiore di prima è il virologo Fabrizio Pregliasco, che si dice favorevole a lockdown programmati con cadenza periodica che potrebbero aiutare il sistema a tirare fiato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora facciamo il punto anche sull'andamento dell'epidemia a livello globale. È la settimana della serrata, l'Europa torna a chiudersi perché non ci sono alternative, per dirla col primo ministro inglese. There is no alternative. Così dalla Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna all'Austria, alla Grecia, in gran parte del vecchio continente inizia un lockdown bis più o meno rigido. Nel paese di Angela Merkel da oggi sono state chiuse le attività non essenziali con la riduzione dei contatti sociali, una forma di confinamento più leggero di quello francese, dove la prospettiva è riaprire a inizio dicembre, ma si valuteranno delle concessioni prima per i negozi. Da domani l'Austria inizia il suo secondo parziale lockdown con serrande abbassate e divieto di uscire dalle 20. In Gran Bretagna, dove anche il principe William si era contagiato ad aprile, si viene a sapere ora, il primo ministro Johnson sta per spiegare che le restrizioni al via da giovedì sono l'unico strumento per evitare il doppio dei morti. La Grecia divide invece il paese in base al livello di rischio, mentre in Svizzera è Ginevra ad introdurre i divieti più rigidi. E nell'Europa che si richiude entrano anche il Belgio e l'Olanda, la Repubblica Ceca e l'Irlanda, sia pure con misure diverse. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero per il rush finale per la corsa verso la Casa Bianca al voto che si terrà domani. Proprio in queste ore è cresciuta anche la tensione tra il presidente Trump e Anthony Fauci, il super esperto di malattie infettive, che è stato molto critico verso la Casa Bianca per la gestione della pandemia, mentre nei sondaggi ancora in testa Joe Biden. Si apre all'insegna dell'incertezza l'ultimo giorno di campagna elettorale oltreoceano, coi sondaggi che segnalano Joe Biden ancora in testa ma con qualche segnale di possibile rimonta trumpiana negli stati chiave. Gli sforzi dei due contendenti si concentrano in queste ore in Pennsylvania, uno stato chiave nell'assegnare la Casa Bianca. Qui Biden ha un vantaggio su Trump di 6-7 punti, ma meglio non dare nulla per scontato. Più rilassato appare il campo democratico in altri due stati in bilico, Michigan e Wisconsin, mentre Biden punta a infliggere sconfitte definitive per Trump in Florida, Iowa e Georgia. Ma in questa elezione straordinaria i timori si concentrano sull'imprevedibile comportamento dello stesso Trump domani notte. Dichiarerà vittoria anche in assenza del conteggio di decine di milioni di voti espressi per posta, potenzialmente in grado di ribaltare il risultato negli stati chiave? Accetterà in questo secondo caso i risultati definitivi o aizzerà i suoi sostenitori? COVID. Trump intanto, sprezzante dei gravi numeri pandemici oltreoceano, offre in pasto ai suoi sostenitori l'odiato scienziato Anthony Fauci, colpevole di sostenere una linea antitetica alla sua sul virus. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo in chiusura con lo sport. Carlo Genta, ben ritrovato, Carlo. Ciao Alessio. Allora, ciao a tutti. Fine settimana appena trascorso, bilancio. Beh, bilancio che è un campionato che è difficilissimo da leggere, sembra la corsa del gambero per alcune squadre come l'Inter che pareggia, come il Napoli che perde in casa con un sorprendente Sassuolo, peraltro abbastanza dimezzato dalle ovvie ragioni. Torna a vincere la Juventus perché torna Ronaldo e non si ferma più soprattutto il Milan con Ibrahimovic. Insomma, vecchietti all'arrembaggio, da Ibra a Cristiano Ronaldo, questo può essere un po' il titolo, senza dimenticare quelli della Roma che pure vince, sempre all'insegna di Dzeko 35, di Mkhitaryan e di Pedro, che comunque sono giocatori fortissimi ma stagionati, sono molto di moda, in cui molto vintage. Saper resistere. Comunque ne e poi Formula 1. Poi Formula 1, perché ieri c'è stata la corsa a Imola, erano tanti anni che non vedevamo la Formula 1 a Imola, pure con le foglie morte intorno, senza pubblico, però è stata davvero una bella gara, vinta dal solito noto, cioè Lewis Hamilton. Buona la Ferrari quinta, il massimo possibile, e comunque bella corsa, anche lì vintage all'arrembaggio, perché Kimi Raikkonen ha fatto una gara spettacolare, è arrivato nono ma è stato tra i primi per tanti giri. Gigi Proietti era romanista, e apriremo proprio con ricordando lui e Sean Connery. Avremo Gimbo Tognazzi, tra l'altro cuore milanista, tra gli ospiti, sentiremo Boris Sollazzo e poi avremo il direttore di Sky Federico Ferri, di Sky Sport Federico Ferri, per mettere insieme un po' tutte queste cose. Grazie Carlo. A te Alessio. Appuntamento naturalmente col pomeriggio sportivo alle 14 dopo il GR delle 14. Noi adesso, dopo questa sintesi della giornata, torniamo e faremo l'attesa verso il nuovo DPCM con Conte, che avete sentito appena finito di parlare alla Camera, e c'è già un profluvio di dichiarazioni e forse anche un anticipo di misure. Che ci saranno limitazioni per esempio al 50% sui mezzi di trasporto, lo capiremo tra poco insieme a Fabrizio Pregliasco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco. Guarda al futuro con Italiana Assicurazioni. Vi presenta. Effetto giorno. Queste sono le notizie di oggi. Emergenza Covid, Italia verso lo scenario peggiore, necessario intervenire, così Conte alla Camera. Ancora poche ore di attesa e poi si conoscerà il nuovo DPCM, tutto chiuso dopo le 21, zone rosse locali, scuola a distanza anche alle medie, tra le misure probabili. Addio a Gigi Proietti, mattatore per quasi 50 anni della scena italiana, avrebbe compiuto oggi 80 anni. Volata finale per la Casa Bianca, Biden in vantaggio nei sondaggi, 90 milioni di americani hanno già votato. Le 13:17, eccoci qua in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. È con noi Fabrizio Pregliasco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ben ritrovato Pregliasco. Allora, siamo, come dire, nell'immediata vigilia delle decisioni, insomma, che sono annunciate tra stasera e forse al massimo domani mattina, del nuovo DPCM, però ad ascoltare Conte alla Camera sembra che il dado sia tratto, che molte decisioni siano già state prese, ve l'abbiamo raccontata nella prima parte, io leggo solo velocemente giusto per un aggiornamento di cronaca, mezzi pubblici verso il 50%, ancora per quanto riguarda la didattica a distanza alle scuole medie, prevista anche questa, chiudiamo mostre e musei, eccetera eccetera. Pregliasco, la cosa che mi sembra più importante da commentare a questo punto è l'affermazione di Conte sulle tre aree di rischio, tre livelli di rischio che poi andranno, come dire, a identificare tre diverse, se abbiamo capito bene, misure, livelli di misure, perché fino ad oggi si sono parlate di possibili zone rosse locali, c'è un contrasto con le regioni che, mentre nella prima fase volevano più indipendenza di scelta, adesso hanno chiesto una copertura nazionale di queste misure. Questo è quello verso cui si va, cioè una definizione di parametri in base ai quali si può entrare o uscire da misure di contenimento, è questo? Ritengo di sì e credo possa fare chiarezza e oggettività a questi interventi. Io spero che questi giorni già potremo vedere, oggi, domani, qualche ulteriore segnale che si intravede anche in Lombardia rispetto, per esempio, all'appiattimento del numero di casi nelle terapie intensive, che a mio avviso può essere già legato ai primi, diciamo, dispositivi e anche alle disposizioni regionali. Un quadro nazionale, a mio avviso, aiuta per poter prendere in mano la rincorsa e il seguire questa patologia, perché è necessario, e la filosofia di questo DPCM, quello che l'ha preceduto, è riduciamo quei contatti non essenziali, perché dobbiamo renderci conto che ogni contatto è a rischio e quindi togliamo quelli che si possono posporre. È triste perché vuol dire qualità di vita, vuol dire lavoro per molti, ma concentrarci su quello che è importante, il lavoro, la sanità, la scuola per quanto possibile, però gasandola un po', per dire così, da quello che sono la gran quota di trasporti dei più grandi, a cui bisogna chiedere questo ulteriore sacrificio, ponendo invece, come dire, l'attenzione alla didattica presenza per i più piccoli. Quindi ecco, ma anche questo, cornice, sì. E poi degli elementi che possano in qualche modo essere attuati su territori in maggiore sofferenza. Pregliasco, quanto è grave la situazione? Cioè a livello di RT, quindi velocità di diffusione dell'epidemia, ma anche di tenuta del sistema ospedaliero, secondo lei quanto è grave? In prospettiva, nell'arco dei prossimi giorni, delle prossime 10-15 giorni, può diventare veramente preoccupante. Abbiamo l'esigenza di lavorare ora, perché di anticipare è di tenuta, ma sempre più di sofferenza e soprattutto di riduzione di quella garanzia che oggi c'è di avere per ognuno la possibilità del ricovero ospedaliero, anche in situazioni, come ci viene detto a volte, sì, anche magari solo di prudenza o ed è tra l'altro il momento per dire siamo bene i pronti soccorsi, non intasiamoli, perché la paura, l'allarmismo eccessivo portano anche a un collasso più rapido del sistema, che invece è sotto stress e prospetticamente può avere dei problemi. Quindi valutiamo davvero questa esigenza per ognuno di noi di rispettare le regole, che sono l'elemento fondamentale, un nuovo galateo che abbiamo imparato, usato sì, a conoscere naturalmente. Primo lockdown, ma ora avevamo un po' abbassato la guardia. Senta Pregliasco, se abbiamo capito bene, se passasse anche per le scuole medie la didattica a distanza, di fatto due terzi della scuola italiana sarebbero chiuse, si farebbero solo a distanza, cosa che non accade per ora negli altri paesi che hanno avuto una curva anche peggiore della nostra. Come mai succede questo in Italia? Si è perso tempo? Cosa è successo? Non c'è un manuale esatto di gestione della pandemia e degli effetti che ogni singolo intervento può dare. Solo l'ANSES ha evidenziato però un'importanza, addirittura una riduzione del 13% dell'RT chiudendo le scuole. Quindi un'azione le scuole chiuse ce l'hanno. È chiaro che dipende un po' dal contesto complessivo e io spero e credo che possano esserci, come mi pare anche la filosofia complessiva di questo DPCM, la possibilità di, come dire, di aggiornare sulla base dell'andamento epidemiologico la l'organizzazione e le prescrizioni, però io credo che siamo messi tutto sommato meglio in termini numerici, quantitativi, rispetto alle altre nazioni. Continuiamo a sfruttare questo vantaggio per poter convivere al meglio con questo. Ecco, speriamo non a spese dei bambini e della loro scuola. Un'ultimissima cosa davvero flash però, Pregliasco. Per la prima volta sembra che nel nuovo DPCM possano esserci limitazioni ad hoc per gli ultra settantenni. Le risulta? Questo non glielo so dire. Diciamo che bisogna proteggerli tanto e bene, i nostri anziani. E quindi è più che altro, io direi, e deve essere a prescindere, un richiamo importante per tutti noi di trovare soluzioni che anche operative, pratiche di buon senso, di acquisto dei farmaci piuttosto che della spesa per proteggere i nostri anziani. Va bene, grazie Fabrizio Pregliasco, grazie per essere stato con noi. Adesso una piccola pagina a corollario legata alla tanta attesa per il bonus biciclette, perché da domani sul sito del Ministero dell'Ambiente si può andare, entrare, scaricare e richiedere questo rimborso per l'acquisto della bicicletta, che è stato introdotto, lo ricordiamo, per sostenere la mobilità individuale leggera. Alessandra Schepsi. Ci siamo, si parte domattina alle 9 sul sito buonomobilità.it. Un click day significa che per chi dal 4 maggio ha acquistato una bici o monopattino vale l'ordine di inserimento della fattura nel portale e non la data della stessa, come invece inizialmente previsto. Sarà bene dunque arrivare preparati davanti al PC, aver già attivato l'identità SPID, scansionato il documento di acquisto, avere sotto mano le proprie credenziali bancarie per ricevere il rimborso fino al 60% della spesa per un massimo di 500 euro, che il Ministero dell'Ambiente assicura verrà erogato nei mesi successivi. Ad usufruire del bonus maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione e di provincia anche al di sotto dei 50.000 abitanti, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 e nei comuni delle città metropolitane. C'è poi la cosiddetta seconda fase di chi acquisterà e che sempre da domani potrà scaricare dalla piattaforma il bonus spese digitale, valido 30 giorni e fino al 31 dicembre, con il quale recarsi al negozio scelto dalla lista degli esercenti registrati sul portale. Lo sconto verrà applicato direttamente in negozio. Ma i 210 milioni di euro stanziati basteranno per tutti? Il Ministero dell'Ambiente assicura di sì ed eventualmente è pronto a chiedere altre risorse in legge di bilancio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Come se io ti chiedessi a te, c'era la sbandata, non c'era la sbandata, ti venissi a chiedere dettagli. Un uomo non chiede mai i dettagli. Se la sua donna si è messa con un'altra, una relazione, non è che si mette a chiedere i dettagli, cosa avete fatto. No, Scusa un attimo. Intanto il maresciallo, io non sapevo neanche che fosse un maresciallo. E primo. Questo è pure grave, ma comunque non è importante. Non lo sapevo, no, da parte sua. Intanto lui non è neanche qui, è partito, quindi lascerei proprio perdere. Ecco perché vuoi ricominciare, come perché è partito lui. Non credo. E allora, Veronica Pivetti, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, che bello sentirci litigare, mi diverte molto. Stupendo, momenti veramente indimenticabili. È lì che ha conosciuto Proietti, o vi conoscevate già prima? Sì. Lei è entrata nella lavorazione? Ci siamo conosciuti grazie al maresciallo Rocca. Beh, per me è stato ovviamente, quando mi hanno proposto questo ruolo, è stato insomma folgorante, ero ovviamente molto contenta. E poi, ma sai cosa ti posso dire? Abbiamo lavorato insieme con una serenità e una quotidianità e una disinvoltura, ecco, credo che questo sia il termine giusto, assolutamente come se avessimo lavorato insieme da sempre. Per ecco cui perché... Dimmi. No, effettivamente questo aspetto del carattere, forse, di Gigi Proietti, che diciamo, la parola che ricorre di più è mattatore, no? Però un mattatore buono, non un genio cattivo come lo sono stati altri, per esempio. Un grande attore, uno che non avrebbe potuto fare così bene forse niente nella sua vita, perché magari aveva tante altre qualità in altre professioni, ma ha fatto proprio il mestiere giusto, questo è poco ma sicuro. Ma era, essendo un grande uomo di teatro e veramente un grandissimo attore, uno che sapeva proprio recitare bene, l'uomo più naturale, che è poi il segreto per recitare bene, di una naturalezza assoluta. Noi abbiamo avuto un rapporto estremamente diretto, sai cosa? Ci siamo proprio intonati in qualcosa. È chiaro che poi lui è poi insomma, tu mi insegni che quando lavori con quelli bravi, molto più bravi di te, è tutto più semplice, ovviamente. Per cui mi sembra che Il ricordo che io ne ho, a parte di una persona con la quale sono stata proprio bene, è stato veramente un grandissimo piacere, oltre che un grandissimo divertimento, ma proprio di un, proprio avere un, non so come dire, un po' la stessa, lo stesso ritmo, ecco, noi ci siamo sicuramente molto incontrati su quello, anche su una presenza, sulla comicità, sul fatto. Tra l'altro questo era un ruolo no, meno forse umorista e più umanizzato, no, di Proietti rispetto alla sua, certo, carriera, dove è stato proprio il grande. Per esempio una curiosità, sì, grande raccontatore di barzellette, anche nella vita privata lo era? No, vabbè, allora tu devi sapere che io credo che lui, mi sono fatta raccontare da lui la barzelletta del gelato al carciofo, credo 50 volte, considera che noi abbiamo fatto insieme 3 serie del Maresciallo Rocca, e lui me l'ha raccontata la prima volta e io sono morta dalle risate. Allora ciclicamente gli dicevo: Gigi, mi racconti quella? Un'altra volta. Mi racconti quella del gelato al carciofo? Lui mi raccontava la barzelletta del gelato al carciofo e io ridevo dello stesso modo, e lui pure. Cioè, la cosa stupenda è che tutti sapevamo tutto, sapevamo come finiva, sapevo anche ormai le facce che faceva, però io ogni tanto gliela chiedo, perché dico: scusa, ti prego, quella del gelato al carciofo, ma questa è una grande dote, cioè farti ridere la 30ª volta non è come farti ridere la prima. No, è vero. Cioè, lui aveva una fucina, sì, di barzellette inesauribile. Ma e poi è bello, sai, bello anche della quotidianità, il bello di lavorare quotidianamente con una persona di quel livello, di quella cultura, perché, e poi guarda, ti posso dire un'altra cosa fondamentale: non era snob, era la persona meno snob che io abbia mai conosciuto, e guarda che in questo ambiente ce ne sono tante che se la tirano tanto, che fanno cascare tutto dall'alto. Una persona veramente che non conosceva questi mezzucci, queste strategie, così era, e infatti non è poi un caso che un uomo sia così amato, cioè un attore così amato, c'è un motivo, non è solo la grande bravura, non è solo che ti fa divertire, è che ti comunica un'umanità scevra da fronzoli, da strategie appunto, da sovrastrutture, e quella è una dote. Il vero problema è che sono talmente pochi quelli così, che quando muoiono dici: porca miseria, si è rotto un pezzo unico, questa cosa qui non si può fare più, questa cosa qui non c'è più. Per fortuna la televisione lo ha salvato in mille sue rappresentazioni, che sia teatro, che sia televisione, però è la sensazione di solitudine che ti lascia quando un genio se ne va, e lui è sicuramente un genio di questo mestiere, e non ci passerà questo dispiacere. Ci piacerà vederlo ancora, però sono quei vuoti che rimangono vuoti, insomma. Grazie Veronica Pivetti, grazie per essere stata con noi. Sicuramente ci mancherà, però abbiamo la fortuna e il privilegio di poter ne godere ancora tanto attraverso tutte le sue numerosissime interpretazioni. Ma che hai fatto? Mi sono travestita da femme fatale. Rimango senza fiato, che devo fare? Era quello che volevo, finalmente. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi: emergenza Covid, regole differenti in base ad aree di rischio, così Conte alla Camera. Ancora poche ore di attesa, poi si conoscerà il nuovo DPCM, tutto chiuso dopo le 21, zone rosse locali, scuola a distanza alle medie tra le misure previste. Grande dolore per la scomparsa di un intellettuale lucido, così Mattarella sulla morte di Gigi Proietti, mattatore per quasi 50 anni della scena italiana. Volata finale per la Casa Bianca, Biden in vantaggio nei sondaggi, 90 milioni di americani hanno già votato.